Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara siamo di nuovo qui a presentare un artista, questa volta viene dalla Toscana, ma ne parleremo tra qualche istante. Vi ricordo le nostre frequenze 88 e 700 e 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Blu Radio Veneto c'è anche un suo sito dove potete tranquillamente vedere tutte le nostre notizie e nonché anche gli eventi, anche i live, insomma quello che volete voi guardare, soprattutto nella nostra regione il Veneto, lì trovate tutto quello che desiderate. Allora www.bluradioveneto.it. Abbiamo lo streaming audio che vi ricordo è semplicemente cliccando la freccia nera sotto la scritta streaming nella home page del nostro sito, e poi nella recensione dell'artista troverete appunto anche la scritta diretta streaming, cliccando lì andrete direttamente a sentire la voce e anche la musica di questa artista. In questo caso quest'oggi abbiamo una grandissima artista, una bellissima ragazza, si chiama Giulia. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao, grazie, bentrovata. Bentrovata Giulia. Parlavo prima di iniziare il programma da Firenze con furore musicale, però con furore musicale. Un bel viaggio, però è bello così, secondo me, è positivo. Tu sei già arrivato al secondo disco, però ho letto nella tua biografia, è un carattere un po' nomade, praticamente. È vero, è sì. Così? E infatti è per questo che sono piombata qui, quasi senza preavviso. per quello, sì, però è bello così. Musicalmente, e tu ami, hai cominciato a suonare cantando e suonando le musiche tradizionali inglesi ed americane. Beh sì, io ho cominciato con quello che ho trovato in casa. Cioè cosa vuol dire? Cioè, quelli erano i dischi praticamente. Quali erano i dischi? Che hai trovato in casa all'epoca? C'era John Baez. Ottimo, ottima cosa. Simon & Garfunkel. Perfetto. Al Stewart. Sì, Yellow Cat per esempio. Bellissimo. Time Passages. My Passages, sì. Anche quello sì. On the Border. Quindi sì, dischi di folk, però poi anche dischi di rock, c'era Pink Floyd, Beatles. Sì, certo. Sono un po' cresciuta con tutti questi, con questi artisti. E poi c'erano, mio padre amava cantare canzoni folk popolari. Ah, bello. Sia italiane che estere. E quindi c'era una libreria intera di spartiti. E quindi hai cominciato a quindi dare sì, un'occhiata. Con lui ho cominciato a imparare i primi accordi, cantavamo insieme, insomma in famiglia mia c'era sempre molta musica nell'aria. Bene. Infatti è una buona cosa. È un'ottima cosa. Quindi hai cominciato dal folk, ma il primo disco che hai fatto 2 anni fa non era prettamente folk, era un po' arzigogolato, possiamo dire questo? Sì, era un po', è stato un esperimento, una mescolanza. Un disco che ho avuto l'occasione di realizzare insieme a un ex DJ. Ah, perfetto. Quindi questa è una cosa, proprio una garanzia, possiamo dire. Esatto. Che quindi è iniziato così per caso. Lui gli piacque molto la mia voce e mi chiese di mettere delle voci su delle musiche sue di stampo prettamente elettronico. Certo. E da lì poi ci sono nate idee e il discorso si è evoluto, per cui ho fatto confluire alcuni dei miei pezzi in questo progetto e ho scritto poi i testi e le musiche, insomma, e quindi alla fine è nato un disco. Si chiamava il disco? Lo ricordo. Julia and the Dizziness. Perfetto. E ricordo che il nostro produttore, direttore artistico Alberto Prisco, che è qua, che salutiamo e che ringraziamo, visto che stasera sei venuto a fare un giretto anche per lui. Grazie Alberto. Ci aveva segnalato il discorso e noi avevamo fatto un'intervista tempo fa con te, parlando di quel disco. Adesso le cose sono leggermente mutate, non ti chiami più Giulia Ed End, ti chiami solo Giulia Millanta. Mi chiamo solo Giulia Millanta, ho fatto questo processo di forse anche in parte semplificazione, nel senso non è un lavoro, questo nuovo disco è un lavoro esclusivamente mio, che io ho scritto, arrangiato e anche prodotto. Quindi è autoproduzione totale al 100%. Sì, quasi. Poi vabbè, comunque poi si è creata un'etichetta, è un disco distribuito da Audioglobe, quindi certo. Comunque si è inserito nel circuito dell'indie italiano. Però originariamente era ed è un progetto esclusivamente mio, nel quale ho voluto un po' cimentarmi anche così, tipo lancio nel vuoto. E come mai hai voluto continuare a parlare in inglese nel disco? Dunque, in realtà ultimamente sto scrivendo anche in italiano, sì. Però con il primo disco effettivamente si erano aperte delle porte. Recensioni erano ottimali, io ricordo, tutte ottimali, anche queste del nuovo però. Sono tutte anche molto buone. È molto buone, mi vogliono bene, esatto. Sì, devo dire. Positivo. Poi non ho dato tangenti a nessuno, sì, quindi Basta la tangente musicale, ci farà sentire la tua voce, che è positivo. Questo mi fa piacere. E quindi col primo disco si erano aperte delle porte negli Stati Uniti, in Nord Europa, e quindi ho sentito un pochino l'esigenza di continuare a sondare questo terreno. Oltretutto io c'ho questo brutto vizio, brutto fra virgolette, che è quello di fare quello che mi viene spontaneo, quello che mi viene naturale. E obiettivamente io non mi trovo a, non ho mai tradotto testi, io scrivo o in italiano o in inglese in base a quello che la musica mi suggerisce, in base a quello che il testo o cose l'argomento tue. Assolutamente. Come nascono le tue canzoni, Giulia? Cioè, cosa che ti spinge a scrivere un testo? Una cosa che ti può capitare, che ti succede? O vai a fare, come dico sempre io, vai a fare la spesa e ti viene in mente una frase, qualcosa? Tutto, di più. Ci sono stati pezzi nati in una notte da un'idea. Sempre di notte, grandi artisti. Ma questo è proprio perché la notte è un momento troppo magico. Lo dicono tutti, sai, quelli che passano per di qua. È il momento del raccoglimento, certo. Uno è solo con i propri mostri, con le proprie idee, con i propri sogni, sì. Quindi da lì... poi ci sono anche pezzi nati di giorno, certo. Però devo dire la maggior parte di notte. Noi abbiamo qui un valido rappresentante di chi è sveglio di notte, ascolta musica. Di notte, esatto. Nottambulo. Dormo pochissimo, però perché secondo me alle 2, alle 3, anche alle 4 di mattina la musica si sente meglio. È vero, perché c'è silenzio. Certo. Silenzio. È vero. A proposito di musica, cosa dice Agostino? Facciamo vedere il primo pezzo. Sì. Giulia, cosa ci hai scelto per aprire il tuo mondo musicale in questa serata? Dunque, il primo pezzo è il primo pezzo del disco, che è anche il singolo che poi sta girando un po' nelle radio, che il mio ufficio stampa sta mandando in giro, che si intitola Right Between the Eyes, che significa dritto in mezzo agli occhi. È un titolo in realtà che poi mi sono ricordata che ha comune con un pezzo di Crosby, Stills and Nash. Questo è vero, sì, però questo però è un optional. È un optional. È un optional. Se ti interessa, a ottobre sono qui. Sì. No, ogni tanto seguo. Segui. Non abbiamo ancora ricordato il titolo del nuovo disco, Giulia. Dropping Down. Perfetto. Che significa cadere giù. Esattamente. E poi c'è una particolare... Cadere giù, hai fatto un lungo discorso sul disco per il cadere giù. Sì. E poi ne parleremo. Ne parleremo dopo. Bene. Ascoltiamo la canzone. Bad words, I am gone for good. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, siamo in compagnia di Giulia Millanta questa serata con Blu Radio Veneto. Questa copertina che mi ha incuriosito, questo volo che stai facendo, è una caduta, è un volo, ti stai rilanciando? Cosa significa questa foto iniziale, diciamo? Beh, è un po' tutte e due. Sono due facce di una medaglia. Mi sono accorta, il disco, quasi da subito ho capito che questo disco si sarebbe chiamato Dropping Down, che vuol dire cadere giù. E poi mi sono accorta che uno dei il filo conduttore, o comunque una delle caratteristiche comune fra tutti i pezzi, è un po' questa doppia faccia, cioè il cadere giù e quindi la perdita della disillusione, il crescere, diciamo così, insomma, e il vedere le cose per quello che sono, e quindi in questo senso il cadere giù. Però d'altra parte c'è comunque sempre in ogni pezzo un pochino anche questo senso di fluttuare e di volare o comunque di voler vedere il lato positivo delle cose, perché poi quando, come dico, come ho scritto, come hanno scritto nelle recensioni, quando uno cade giù intanto vola, certo, e vede le cose comunque da un'altra prospettiva, il che è sempre una gran ricchezza, perché... Il finale di questo pezzo del singolo, mm-hmm, che abbiamo sentito al finale, proprio gli ultimi secondi, tu hai parlato che in casa tua c'erano musicisti americani, inglesi come dischi, hai parlato di Crosby, Stills, Nash, Young per via di un, mm-hmm, pezzo che hai citato inconsciamente. E il finale aveva molti riferimenti a quei quattro mostri, finale del pezzo, secondo me, è molto americano. Mm. Una piccola jam session finale per mettere in chiaro, in evidenza, la tua volontà di andare avanti a fare un determinato percorso. È così? Ma sì, penso, non ci avevo mai pensato. Io in realtà ho fatto, ripeto, non ci sono state decisioni a tavolino. No, quello no. C'è stato quello che la cosa bella di lavorare con musicisti che poi sono... Adesso citiamo i musicisti. Dai. Che sono amici, cioè sono tutti amici, sono persone, anzi, con le quali sono anche cresciuta musicalmente con alcune di loro. La cosa bella è proprio questo, cioè di mettersi insieme e far nascere le cose, quindi... Io ho arrangiato il disco, ma poi tante cose sono anche nate dallo stare insieme, dalla collaborazione, dalle idee di qualcuno, idee che giravano, dai suggerimenti, certo. Reazioni a catena, insomma. Sì, un disco di folk rock, sì, però un folk rock a tua matrice, a tua somiglianza. Folk rock è la matrice, come, mm-hmm, abbiamo detto, ma poi si sviluppa in altri settori, si amplia. Bene, sì, sono felice. D'accordo? Sono d'accordo, bene. Sì, l'idea era quella. Almeno cioè, i pezzi che ho sentito erano così. Mm-hmm. Il disco precedente aveva un'altra impostazione, sì, perché come abbiamo detto avevi con una band o presunta tale. Questo è solista, e solista ha determinate esigenze, chiaramente. Anche se però i collegamenti ci sono, non si è perso come avevi fatto precedentemente. Mm-hmm. Si sviluppa, si continua, si allarga, no? Bene, no, io sono felicissima che tu dica questo. Bene. Il prossimo disco, cioè il terzo, che farai prossimamente, quando sarà? Sarà ancora impostato così oppure tornerai alle tue vecchie origini o resterai sempre Giulia Millanta? No, resterò Giulia Millanta perché queste sono le mie vecchie origini. Certo, ti senti più te stessa, insomma, diciamo, sì, nella parte... Sì, mi appartiene di più, anche certo, proprio come sonorità. Molto probabilmente il terzo disco sarà in italiano, però ancora non mi sbilancio troppo, non lo sottoscrivo nero su bianco. C'hai già qualcosa? Sì, c'ho già, ultimamente poi sto scrivendo un sacco, quest'ultimo mese mi sei accesa non so cosa e vado a letto alle 6 di mattina. Ogni... La lampadina, tac! sto facendo una vita tutta sconclusionata in cui non dormo mai, non so più che ore sono, e sto scrivendo un sacco, quindi il materiale si sta accumulando e prima o poi insomma... Quindi sei in vena creativa, insomma? Abbastanza, sì. Quindi è meglio continuare questo... Va bene, Giulia Millanta qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolore e soprattutto con Maurizio Calzavara, che stiamo cercando di scoprire il mondo musicale di questa splendida artista toscana. Com'è la musica lì nella tua zona? Come si vive? È difficoltà? Vabbè, non è un periodo fantastico in generale. In generale, Firenze ha delle gran qualità, è una gran città, però il lato negativo di Firenze è che è un po' lasciata in pasto ai turisti, quindi tante cose che vengono fatte a Firenze secondo me dovrebbero essere fatte di più per le persone di Firenze che per i turisti, Quindi io la sento un po' questa cosa, però comunque tutto sommato il panorama non è male, si suona e ci sono tante buone cose, tanta ricchezza poi, insomma. Ci sono tanti festival lo stesso, tanta gente, tante band che girano. Di Fiorentino io ricordo una band, beh, tu conosci sicuramente i Diaframma, quello è un genio, poco capito, adesso lentamente hanno cominciato a capire quanto bravo era e quanto bravo è. Sì. Però è una musica un po' difficile, chiaramente, però è una musica di ricerca e poi è andato avanti a fare tante cose. Poi ricordiamo una cosa, purtroppo se n'è andato qualche mese fa, ma c'è Ernesto De Pascale che era uno che catalizzava gli emergenti, aveva un'idea molto interessante degli emergenti, faceva degli studi, aveva un'etichetta, faceva dei festival. Purtroppo se n'è andato alcuni mesi fa, però era un punto importante per gli emergenti, secondo me, toscani, non solo toscani, italiani. Sì, Ernesto è stata una grossa perdita, devo dire. E comunque una di quelle poche persone davvero che ancora ha la lucidità, la passione, aveva purtroppo. E la passione e anche il coraggio di dire le cose come stanno. Sì, era schietto quando vedevi una cosa la diceva e basta. Pure troppo. Sì, qualche volta pure troppo. Qualche spigolo, insomma. È un po' spigoloso, sì, certo. Però io preferisco così, ecco. Per lo ma meno. È una caratteristica un po' vostra comunque della regione, vero? Ahimè. No, senza offesa, ci mancherebbe. No, io sottoscrivo, io sono spigolosa, quindi. Ma più che spigolosa ti trovo schietta, insomma. Sì, ecco, questo devo dire, nel bene e nel male la diplomazia non è proprio una cosa che mi appartiene moltissimo. Io sono come te, sai, amo dire le cose che penso, perché credo sia la cosa più bella da fare, insomma. Quello sì, però ecco, se io dico una cosa potete star sicuri che è quella. Che è quella e non ci sono vie diverse, traverse, no. Quella è basta. Ma addirittura io c'ho amici che mi vedono come sto da come parcheggio la macchina, da come arrivo, cioè mi vedono da appena mi guardano in faccia hanno già capito come sto, quindi perfetto. Non posso mentire io. Qui l'hai parcheggiata bene la macchina, non sì. Va bene, ci ascoltiamo questo Uomo Vecchio? Sì, ok. Sì. Cosa com'è nato questa canzone? È riferita a qualche tuo personaggio? È riferita a questo anziano signore che incontrai a una festa di un paesino e mi innamorai. Io ho una gran passione per i vecchietti, devo dirlo, perché mi immagino le loro storie, la loro vita, e poi penso come nelle culture tradizionali gli anziani sono persone importanti, sono la storia, sono la memoria di un posto, di una civiltà. Quindi questo personaggio mi faceva molta, molta tenerezza, ci ho scritto questo pezzo che vorrei ricordare. In questo pezzo ho avuto il grandissimo piacere ed onore di avere Stefano Cocco Cantini al sax, che è un grandissimo, esattamente. È veramente eccezionale, e il chitarrista americano Ed Gerard che suona la Weissenborg, che è una chitarra. È una cosa. Descrivi un momento per i nostri ascoltatori cos'è la Weissenborg. È una chitarra che proviene dalle Hawaii. Che ha una forma simile alla chitarra tradizionale, però con un manico più largo. Ora purtroppo non riesco, non posso fare gesti, però un manico più largo, sembra che abbia quasi delle alette accanto al manico, e si suona sulle ginocchia, si suona in orizzontale sulle ginocchia con la barra di ferro, con lo slide e i plettri alle dita. Ed ha una sonorità particolare, chiaramente. Sì. Unica, possiamo dire. Sì. Ci hai provato anche tu? No. Quella no, provo un po' tutto, però quella non ha avuto ancora. Non ancora. Scriveremo a lui e ti faccio provare. Allora ci ascoltiamo The Old Man, Giulia Millanta. Last night I went to the central square. There was a party of neighbors. I just walked there like a sailor, heading nowhere. A rock band was playing loud. They weren't good, but they looked fine and proud. So I tried to get into a party mood. Tired face, wrinkled hands, he was smiling at those guys. as if a sadness were in disguise. He was smiling so free, he was clapping at each song, maybe trying to forget he was alone. How I wanted to say hi. I wish I hadn't been that shy and been able to say, please teach me to smile that way. He was smiling so free, he was clapping. Trying to forget he was alone. Sad and lonesome one was me. Next time if I meet him, I'll ask him the secret of his peace of mind. He was smiling so free, he was clapping at each song. With his joy he was no longer alone. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Chiusura in dolcezza con questo sax, splendido veramente, complimenti per la scelta di questo musicista, perché complimenti a lui. Sì, che... beh, certo. Grande. L'hai proprio voluto tu? Sì, sì, sì. Proprio una richiesta tua, insomma. Sì, beh, poi siamo amici, lui mi disse, gli piacque molto il primo disco, mi disse, oh, se vuoi qualcosa... qualche collaborazione, sono. Vengo subito. Sì, sì, sì. E tu non hai detto di no? Ovviamente. Hai fatto bene, perché il sax, come ha detto giustamente Agostino... cioè descrive, quasi modella il pezzo veramente. È un pezzo americano, abbiamo detto, il microfono spento. Sì, è americano indubbiamente, però quel tocco, non dico americano, europeo del sax, sì, leggermente lo sposta, anche se la matrice è quella. Sì. Sì, sì, infatti il sax è stato un po' messo anche per questo, sì, per appunto creare un po' di contaminazione. Esattamente, leggermente variare le coordinate. Mm-mm. E adesso, a proposito di coordinate, adesso suoniamo, Giulia? Adesso suoniamo, dobbiamo dai. Suonare. Cosa ci fai ascoltare? Faccio un piccolo excursus e faccio un pezzo dal primo disco. Ah, bene. Che cosa hai scelto? Silent and Proud. Mm. Okay. Ok. Blu Radio Veneto. All the things I didn't do with you, I finally said goodbye and left them behind. To all the things I didn't do for you, I surrendered with peace. No more a pretender now at my ease. I'm flying to the sun on my wings, and landing on stormy wings, and that for sure will be safer than hanging around with our soul fader. 'Cause I'm as much satisfied as long as I'm not denied. There's shades of humanity, there's too much serenity to believe that I'm here alive, to be able to hear for a while the sound of my heart beating and my jaws eating. Watching the sea playing with the stones and ascending between, I feel a deep lid in my bones like homozygous twins. And when your voice is not raising loud, all you have to do is to be silent and proud. There's shades of humanity, there's too much serenity to believe that I'm here alive, to be able to hear for a while the sound of my heart beating and my jaws eating. Watching the sea, watching the sea playing with the stones and the sand in between, I feel a deep lead in my bones like homozygous twins. And when your voice is not raising loud, all you have to do is to be silent and proud. Dolcissima, è dolcissima, è sempre dolcissima, è sempre. Posso farti una domanda indiscreta? Sì. Sei mai passata per Nashville? No. Oh, perché hai un qualcosa che ricorda quella musica, insomma. Prima o poi ci andrò, oh, però ancora non ci sono. Lì passata. È una città che sforna continuamente artisti straordinari. È vero. E tu sei su quella zona lì, insomma. Complimenti. Grazie. Leggevo qui una recensione che hanno fatto su di te, una intervista che ti ha. Proprio la parola esatta sarebbe proprio recensione. Dice: ascoltando Dropping Down, si ha l'impressione unica di affrontare un viaggio attraverso il mondo, restando in qualche modo nella nostra provincia italiana. Ti rappresenta proprio questo? Sì. Sì, secondo me sì, sì. È un viaggio attraverso la musica mondiale. Accidenti, io non so, mi sembra anche troppo. L'ha detto un certo Alessio Tomasoli. Sì, sì, sì, sì, io un pochino mi ho perso il filo di tutte le recensioni, perché ogni tanto ne escono e dopo me le dimentico, ma insomma, bene, sono contenta. Bene, immagino, insomma. L'idea del viaggio mi è sempre stata molto cara, quindi... E questo pezzo che hai fatto dal primo album, che adesso l'hai fatto in versione acustica, sì, un po' cantreggiante giustamente, però a me mi ricordava qualcosa della Joni Mitchell, da Lauryn Canyon, quel genere, quegli albums là. Perché è un po' contrastata, non è una ballata, è una ballad, sì, ma un po' contrastata, un po' vivace in alcuni momenti. E a proposito di questo album nuovo che adesso stiamo esaminando, tu parlavi di floating, di fluttuare, l'ultimo pezzo si chiama Floating. E a me veniva in mente una cosa di alcuni anni fa, tu sei giovane quindi non puoi ricordarlo. Molti anni fa l'Equipe 84 fece un album, si chiamava Dr. Jekyll, Mr. Hyde, e c'era un pezzo, si chiama Floating, che era un pezzo pieno di psichedelia, fluttuante, lisergico nel senso musicale del termine. Tu non arrivi a quei punti, però anche te cerchi di fluttuare, di andare oltre determinate coordinate. Ci provo, sì. La ricerca, anche questo può essere una ricerca rispetto al primo album. Il primo album era più schematico, questo c'era una ricerca delle cose da fare, da sviluppare. E Floating può essere un inizio per portare una ricerca ulteriore. Vedi caso l'hai messo come ultimo pezzo dell'album. Sì. È un significato, secondo me, non è messo là così a caso. È vero, è vero. In effetti avevo voglia di salutare con quel pezzo lì, anche perché è un pezzo completamente diverso. Sì, appunto. Dagli altri. È un pezzo proprio molto scar, non c'è praticamente niente, e comunque mi piaceva salutare appunto con queste idee. Però dall'indice di qualcosa che vuoi sviluppare, qualche pezzo che hai già nel cassetto pronto, secondo me questo fluttuare, andare oltre, liberarsi di determinati orpelli musicali per andare a creare un nuovo modo, che può essere sempre lo stesso, amplificato, messo un po' meglio, e questa è l'idea mia. Chi te l'ha detto? È vero. Nessuno. Oddio, ho avuto l'idea. Non me l'ha detto nessuno. È vero, mi avete messo. Abbiamo telefonato. Noi. Mi avete messo le microchip da qualche parte. Benissimo. Allora, torniamo a qualcosa dal disco adesso. Sì. Come mai Black Sabbath? Io sono. È una tua passione. Ora, no, non esattamente, però. Quel disco lì era un disco di mia sorella, ecco. Che a me mi faceva anche paura, cioè pipistrelle, sì, però quel pezzo lì io lo mettevo veramente a tutto volume e ballavo fino a praticamente a cascare in terra, era una cosa liberatoria che facevo con mia sorella e a volte anche da sola. E quindi, mi è sempre piaciuto, mi è rimasto un po' nel cuore, ho detto, perché no? Poi mi piaceva l'idea di prendere un pezzo che non c'entrava niente e rileggerlo in chiave mia e vedere che cosa ne viene fuori. In realtà in Nord Europa sta piacendo tantissimo, per esempio. Sì, ma il discorso è che Paranoid, fatto in questa versione qui, c'è dietro di me c'è il nostro direttore artistico, anche lui è stato innamorato del violino, ci ha messo il violino in Paranoid. Nell'originale il violino non esiste, loro chiaramente non amavano il violino, anche se il segreto può darsi che sia un loro strumento preferito. A me il violino mi affascina terribilmente, e poi è uno strumento particolare, perché comunque può essere molto dolce, ma può essere anche molto stridente e molto rock, certamente. C'erano Jean-Luc Ponty, te lo ricordi? Beh, forse non lo ricordi, però è un musicista jazzato che faceva musica molto rock. Poi i violinisti, ci sono stati dei violinisti di Jefferson Airplane che facevano cose veramente straordinarie. Quindi insomma, in chiave di violino, una volta si dice in chiave di sola, adesso diciamo in chiave di violino, Paranoid di Black Sabbath. Veduto e corretto da Giulia, chiaramente. Insomma, l'ascoltavi quando avevi pochissimi anni? Sì, 7, 8, insomma. Ad alto volume? A tutto volume, finché la mamma non arrivava inviperita. E ti scatenavi, insomma. Sì. Io direi di ascoltarla, Maurizio, cosa dici? Certamente. Allora, Paranoid, Black Sabbath in versione femminile, cioè Giulia Millanta. People think I'm insane because I am friends. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Fa un certo effetto, Maurizio, sentire i Black Sabbath in versione folk, vero? Sì, ma fa un certo effetto, ma positivo, giustamente, perché bisogna anche cercare di prendere i pezzi e poi non rifarli, rivederli, ricrearli. Può essere anche così? Sì, sì, sì. La melodia è quella, l'intro è quello, conosciutissimo, un singolo colossale di colossale successo, però così è bello lo stesso, cioè attira secondo me. È una ragazza che faccia un pezzo così duro, non durissimo, ma abbastanza violento dei Black Sabbath, in una versione un po' particolare, è positivo, una ragazza, una cantautrice. Quindi per noi è stata una sorpresa piacevole, visto che l'abbiamo messo su in programmazione per 2 mesi, quindi vuol dire che ha preso subito tutti quanti noi della redazione. Bene, per me è stato divertente farlo. Quindi non è stata pesante per te, l'idea è stata veloce, tac, un momento... Oh, sì, sì, sì, non mi ricordo neanche com'è nata, però... Forse reminiscenze, no? Ricordavi questa canzone e... Sì. E allora hai detto, ma sì, la faccio. Sì, non me lo ricordo il momento esatto, però deve essere stato qualcosa del genere, sì, sicuramente. Piacevolissimo, veramente piacevolissimo. Grazie. Ricordo allora, sempre questa è la vostra emittente preferita in questo momento, la state ascoltando, si chiama Blu Radio Veneto, con la voce di Agostino Spolori in questo momento, con Maurizio Calzavara. Stiamo, come dico sempre, cercando di conoscere un po' di più un'artista italiana, nata a Firenze, splendida, con il suo secondo lavoro, si chiama Giulia Millanta. Allora, le prospettive future, concerti. Sì, dunque, concerti. Nelle prossime settimane, vero? Guarda, da quando è uscito il disco a metà marzo fino a tutto giugno sono stata in giro tanto. Mi sono un pochino fermata sulla seconda metà di giugno a tirare un attimo il respiro e adesso ho delle cose a luglio tra Firenze, poi il Buscadero Day il 24 luglio a Pusiano. Ok. A Como. Sì, sì, esattamente. E poi ho delle date in agosto c'ho la Liguria, Genova, insomma qualcosa di nuovo a Firenze. Un po' di cose varie. Sei in tournée, insomma. Sì, e poi dall'autunno dovrei proprio emigrare. Oltre l'oceano? Sì, se vai in America. In America. Sì, sì. Sto fissando delle date, ancora vediamo, è un po' insomma, fumoso, ma insomma ma dovrebbe... Cerchi altre ispirazioni in America o solo a fare i concerti tuoi? No, a suonare, magari anche a farmi un giro. No, che non fa mai male. Che non fa mai male. Benissimo. Allora... Facciamo una cosa che facciamo spesso con i nostri artisti, una cosa veloce, semplice, non difficile. È terrorizzato. No, una cosa semplice, una cosa simpatica. I tuoi dischi da portare su un'isola deserta. Oddio, questo è tremendo. Facciamo una cosa, 3 dai. Sei da sola, di solito sono 5, facciamo 3 dai. Così niente di pesante. I tuoi amori odierni di quest'anno, per esempio. Voi? Beh, allora il primo che mi viene in mente potrà sembrare strano è la suite per violoncello di Bach. Ecco, quella qui non ha stagioni, non ha anni praticamente. Che è di una bellezza disarmante. Ma tu origine classica, cioè hai suonato musica classica? No. È una cosa tua. È una cosa mia, mi piace, ho studiato lirica. Allora, quindi... Molti anni fa, però poi non ho fatto studi classici. Certamente, certo. Però Bach secondo me è incredibile, di una semplicità, di una bellezza estrema. Poi? Poi che cosa porterei? Ce ne sono molti. Beh, un mio grande amore è Neil Young. Questo coro di sospiri. Ma è una cosa positiva. Harvest, scommetto. Lo so, forse porterei The Cade anche perché è doppio, così ce n'ho due in uno e posso sentire. E cosa ne pensi dell'album che è uscito da qualche settimana? Treasure. Non l'ho ancora sentito. Non l'hai ancora sentito. No. Non è un album nuovo, chiaramente sono cose che lui ha ripreso, però io ho letto le recensioni dei giornali musicali. Sai, Neil Young è un mostro sacro e quando fa le cose Neil Young, che faccia cose bellissime, cose meno belle, non verrà mai giudicato in senso negativo. e ne danno tutti 5 stellette, cioè il massimo della votazione di un giornale, di solito arrivano a 6 al massimo. Ecco, qualcuno ci mette sotto qualcosa di lì, anche qualcuno che è Agostino. Questa è conosciuta come Nicolette Larson, però sì, però l'ha scritta lui, l'ha scritta lui. Quindi Trisha ha fatto tante cose. Io ho letto proprio ieri, leggendo su un giornale che tu conosci, non citiamo la testata, del concerto dei Buffalo Springfield, che è stato fatto l'anno mese scorso negli Stati Uniti, la tournée. Hanno riproposto Stephen Steele, Richard Fury, lui non ha voluto Jim Messina, è stato lui a non volere Jim Messina, non so per qual motivo, Tavico non l'ha voluto, e ha riproposto le vecchie cose dei Buffalo, e certe cose sono meravigliose. Sono passati 43 anni e la gente che era là, c'erano giovani, vecchi, vecchi nel senso più anziani, cioè non più giovanissimi, sono stati ammaliati da questo ragazzo, settantenne quasi, che ha fatto delle cose meravigliose con i Buffalo Springfield. Buffalo Springfield era un gruppo straordinario, mi piaceva, creato dal famoso ponte dal Canada agli Stati Uniti, la leggenda dice questo, che si è fermato con una macchina, non riusciva a partire, e un certo Stephen Steele passava per lì e ha dato un passaggio, così sono nati i Buffalo Springfield, ma sono leggende, un gruppo straordinario. Cosa ne pensi della vivacità di un personaggio che non si ferma mai, come Neil Young? Penso bene. Penso che una delle condizioni necessarie sia appunto il non fermarsi mai. E non fermarsi mai. Avere voglia di sperimentare. Neil Young nella sua carriera ha fatto tante cose. Ha fatto tante cose. Anche cose anche brutte. Dischi elettronici. Transformer, sì, esatto. Man, oppure quello c'è un disco Rockabilly. Sì, esattamente. Io li ho tutti perché me li sono comprati tutti. Certo, io me li sono comprati tutti, anche quelli che sapevo che non mi sarebbero piaciuti. Perché? Per fedeltà. Ho capito, giusto. E poi perché tutto sommato, insomma, un artista secondo me c'ha anche il diritto di sperimentare, di far cose discutibili, insomma, ma chi se ne frega. A me mi fa piacere che uno non stia a rispondere sempre alle esigenze del pubblico o tantomeno del commercio, ma faccia quello che vuole. Se poi dopo una cosa meno bella, pazienza. Però fa parte però tutti hanno sempre detto che nonostante le cose brutte ne ha fatte anche lui, nelle cose brutte, nel track delle cose brutte c'è sempre una cosa bella durante dieci pezzi della cosa brutta c'è sempre una cosa da salvare, e Neil Young è fatto così. Sono d'accordo. Io credo che quando un artista se fa qualcosa lo fa perché lo sente di fare, cioè, quindi certo, è una cosa che a lui deve piacere, altrimenti credo che qualsiasi artista non lo metterebbe in commercio, allora lo farebbe sentire. Sì. Io penso che Neil Young stesso di quell'esperienza lì non ne sia del tutto, cioè ne sia stato convinto nel momento in cui l'ha fatta, però magari forse quei dischi non sono neanche fra i suoi preferiti. Certo. Però secondo me si è divertito a farli e si è levato la voglia di sperimentare, quindi ben venga. Sperando che non siano richieste della casa discografica, sai che devono mantenere, e allora butta fuori qualcosa, qualsiasi cosa, sperando che non sia a questi livelli. Io l'ho sentito, non so come, ma non so dove, non mi ricordo, anche in versione gospel. No. Sì, era seduta alla tastiera, cantava una canzone religiosa, ma molto bravo, è bellissimo. Se la trovi, cercala su, credo sia su YouTube, però non vorrei dirti una fesseria, insomma, è bellissima. Bene, ci manca ancora un disco. Esattamente, sì. E stavo pensando, temporeggiavo e vi dico il disco che ieri e ieri l'altro ho sentito a oltranza, che è Rain Dogs di Tom Waits. È un disco che ha una certa età, ma è come fosse scritto ieri. È bellissimo. Non me lo ricordavo neanche più. L'ho messo in macchina perché, ahimè, ascolto quasi tutto in macchina. Certo. E non l'ho levato, è due giorni che va proprio a oltranza. Sì, perché Rain Dogs è uno dei dischi più belli di Tom Waits. Io preferisco, ho detto anche l'altro giorno che ad altra gente si parlava così, io preferisco Blue Valentine, che forse è il periodo precedente, però Rain Dogs è un disco epocale, ha fatto la storia di tante cose, e il buon Vinicio Capossella, che adesso ha grande successo, deve sempre, sicuramente l'avrà detto in privato, l'avrà detto un sacco di volte, ha sentito tante volte Rain Dogs di Tom Waits, secondo me, nel senso positivo del termine, però è così, lui è un genio. È sempre andato avanti anche lui, ha sempre fatto le cose che lui voleva fare nonostante le pressioni di case discografiche, tutto quello che vuoi, e lui è diventato Tom Waits, famoso anche in Italia perché non era famosissimo, grazie ad altri dischi, non proprio Rain Dogs, ma Rain Dogs ha aperto le porte di tutto, secondo me, e di tante altre persone che poi l'hanno seguito, musicalmente parlando. Ti sei riposata abbastanza? Sì, sì. Ma io allora sei pronta a farci qualcosa dal vivo? Cosa hai scelto adesso? Vi cosa faccio ci fa? Un pezzo del disco nuovo, si intitola A Long Dark Road. Benissimo. È un pezzo, appunto, un titolo un po' crepuscolare, una lunga strada, un po' decadente. Sì, buia, ma il sottotitolo è I'm Wearing My Smile, mi metto addosso il mio sorriso e così affronto la vita e schiarisco le tenebre. Ok. Dark road is calling me tonight. The full moon up above has never been so bright. A long dark road is urging me to try. Though I'm so worn out to be the person am I. Oh, the person am I. Under your window, right outside your front door, waiting for you to come down and meet me along the road. Oh, won't you meet me along the road? Out of my mind in someone else's contorted world. Maybe I lost my sanity for a while, but we've been through so much worse. Oh, we've been through so much worse. I'm wearing my smile. Finale dal vivo, cioè dal vivo nel senso proprio da palco. Adesso siamo seduti qua davanti in uno studio radiofonico, finale da palco. Una recensione ha scritto che questo pezzo ha dei coriandoli pop, non in questa versione però. I coriandoli pop non ci sono in questa versione. Nel disco probabilmente sì, nel senso positivo del termine. Qua è molto più crudo, sì, molto sì, scheletrico, volutamente scheletrico, e gli hai dato un certo impatto, anche quasi da musica latinoamericana in alcuni momenti. Io l'ho sentita così. Beh, sai, la chitarra sì, da questo... La chitarra classica poi rispetto alla folk esattamente cambia un pochino la sonorità, quindi... Poi sei stata brava, perché abbiamo preso una chitarra, non è propriamente la tua, e quindi insomma sei stata bravissima lo stesso. Grazie. Quindi dà una certa dà questo cambiamento di sonorità, però questo pezzo l'hai fatto molto schietto, molto scheletrico, quasi striminzino nel senso positivo del termine, poche cose, veloci. Sì, sì, sì, è un po' la caratteristica del disco, cioè... Lavorare più sullo scheletrico, come dire, levare le cose in più e andare al suolo. Ma c'è anche del piano nel disco, non è che sia proprio scheletrico. Sì, sì, sì, sì, sì. Però comunque le canzoni come concezione dal punto di vista compositivo sono più dirette. Ho capito. Sì. Bene. Ricordiamo se qualcuno volesse contattarti, acquistare il tuo disco o anche quello precedente, ovviamente, i tuoi dati, sì, insomma, dove ci si può trovare? Dunque, su www.giuliamillanta.com, quello è il sito ufficiale, e trovate tutto quanto. Trovate anche poi i link agli altri siti, che sono i vari MySpace, YouTube, Facebook, eccetera. Ci sei dappertutto. Dappertutto. E dal sito è possibile acquistare i dischi. Li spedisci tu? Li spedisce la mia webmaster, che si occupa del sito, e poi l'ultimo disco è distribuito appunto da Audio Globe, quindi si può trovare si trova anche nei negozi, non in tutti ovviamente, però insomma è in catalogo, e poi ai concerti ovviamente. Certamente. Abbiamo già citato la copertina, ma visivamente chi l'ha fatta la copertina, la fotografia eccetera, chi si è occupata, te o ad altra gente? L'idea è stata mia. Sì. Il fotografo è un amico, fotografo professionista, che niente, ti ha dato una mano. Beh, sì, ovviamente, perché chiaramente i budget sono quelli, che bisogna cercare di darsi una mano. E sì, poi ha fatto la grafica del disco, ho pensato a tutto lui. Comunque le idee sono state mie. Tra l'altro poi ci sono nella copertina, non so se l'avete voi vista, sì, sì, ci sono dei quadri, sì, che sono anche sul sito, che sono quadri di un mio amico di Torino che si chiama Claudio Bellino, che ringrazio anche perché ha fatto dei quadri splendidi, e alla presentazione ufficiale a Firenze portò tutte queste tele, e erano... Com'è veramente... stata la presentazione ufficiale a Firenze all'epoca? Bella, divertente, un sacco di gente, più di quella che ci aspettavamo, che e poi c'erano veramente questi, tutta un'atmosfera abbastanza scura, con questi quadri intorno alle pareti, veramente belli, e quindi... E poi divertente. Sei stata soddisfatta, insomma, sì, perché atmosfera scura. Sì, ho letto delle recensioni che molti recensori buttano l'amo verso il decadente, l'oscuro dei tuoi pezzi. Ma non sarei molto per me non è che siano molto oscuri. Sì, c'hanno quel dark che esiste, però il dark non così pregnante, così pesante, secondo me. Io adesso farò una piccola critica. Ecco, fai una vai. Che se no non sono io. Certo. Cioè, perché siccome tutti criticano me, mi fanno le critiche al disco, le critiche la faccio anch'io. Ma è una critica, insomma, no, nel senso, io sono contenta di quello che mi viene detto, però quello che io noto è che appena uno si addentra in qualche argomento più spigoloso o usa dei toni un pochino più scomodi, automaticamente questa cosa a volte fa storcere un po' il naso, come se si potessero dire le cose troppo esplicite. Secondo me questo disco non è, ci sono delle sonorità scure, ci sono degli argomenti scuri. Questo disco è dedicato a mio padre, che è morto 2 anni fa. È stata un'esperienza ovviamente importante e dolorosa e tutto quanto, però io non ho problemi a parlare di queste cose. C'è questo, ad esempio, il tema della morte è un tema che per la nostra cultura è da esorcizzare, come oddio, no, non ne parliamo perché ci si mette tristi. No, perché è parte della vita. Ci sono tante cose che sono parte della vita. Sono un pochino magari meno luminose, ok, però non sono del tutto buie, no? Ho capito. Si deve poter parlare di tutto, e c'è una parte di luce in tutto quanto, insomma. Certo, certo, chiaro. Questo è il concetto, insomma, praticamente. È bella questa tua positività, comunque, in senso generale proprio. Posso farti una domanda? Sì? Nel momento che apri gli occhi la mattina, hai sempre questo sorriso? No! Io la mattina non so neanche chi sono. Però, insomma... Poi cerco di ricompormi e ritrovarlo il sorriso. Sì. Dai un'immagine veramente di persona molto solare, molto allegra, molto spensierata anche. Sì, non solo, ora non esageriamo. Però io, insomma, la vita è bella. Io sono felice di quello che fo, della vita che ho. Mi sento una persona estremamente fortunata e quindi sorrido, rido. Vedi, linguaggio toscano che fo. Cioè, che mi pare giusto che sia così. È giusto che sia così. Non ci faccio neanche caso. No, è bello, è bello. È positivo, secondo me. Noi abbiamo, cioè, è giusto che ospitiamo anche che le ragazze che vengono da Firenze. Siamo molto contenti. Sì, sì. Cioè, ognuno rispetta le proprie origini, insomma, ci mancherebbe. Facciamo sentire un altro pezzo da disco. Cosa dici, Giulia? Sì. Bene. Che traccia hai scelto dopo il disco? The Tunnels of My Brain. Che è la traccia numero 3. Numero 3, benissimo. Sì. Ok. Questa canzone? Questa canzone anche questa è una di quelle che viene molto amata oppure non amata, passa, Vuoi che l'ascoltiamo e poi ce la presenti un po'? Come sì. Sì, la sentiamo. Sentiamola. Prima. Ok. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sempre con Blu Radio Veneto, la vostra emittente in questo momento, con Agostino Spolaori, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con lei, con questa ragazza toscana, splendida artista, splendida cantante e splendida anche di persona, è simpaticissima, Giulia. Grazie. Millanta, veramente sei molto simpatica, hai un aspetto molto solare, hai proprio il sole stampato in viso. Bellissima questa immagine di te, insomma. Allora, questa era The Tunnel of My Brain, la galleria della mia mente. Sì, il tunnel del mio cervello. Bello, sì, più o meno. Più insomma. O meno, sì, quello. Allora? Come è nato, come si è sviluppata l'idea di fare questo pezzo? Che è la traccia numero 3, poi parliamo anche musicalmente, che è molto interessante. Ma l'idea non me lo ricordo più. Anche questa voleva essere un pochino una critica alla società, a quello che ci viene detto e rifilato, e noi ce lo beviamo o ce lo mangiamo o ce lo mettiamo addosso, perché ci viene detto che così va bene, in realtà non è sempre vero, anzi, e quindi ce lo fanno bere praticamente. Sì, ce lo danno a bere e ce lo danno a bere, sì. E noi ce lo beviamo. Sì, okay. E quindi ci sono questi quadrettini, queste immagini appunto del la ragazza che va a comprarsi dei vestiti e gli dicono bellissimo, ti sta bene, questa è la moda, e poi si guarda allo specchio e sembra di essere uno straccione, no? Perché dovevano vendere quel vestito là. Esatto. Poi chissà perché quei vestiti sono sempre di moda quest'anno. Sì, te lo vedi, è di moda quest'anno. Sì, è certo. La classica frase che senti in ogni... C'è un'altra cosa che a me mi fa schiantare da ridere, che quando uno si va a comprare una cosa e gli sta stretta, ti dicono sempre no ma poi cede. E poi uno dice no certo mi sta un po' larga, no ma poi a lavarlo restringe. C'è sempre la risposta pronta pur di vendere, questa cosa io ti giuro mi manda proprio in bestia. E allora ho detto ci scrivo un pezzo. Così imparano. Che bello. Abbiamo detto musicalmente parlando, ci sono tanti stop and go fatto dal batterista che è molto bravo, che lo citiamo giustamente. È Donald Renda, abbiamo iniziato quasi insieme, insomma, abbiamo suonato tanto, una persona carissima, simpatico, adesso è in tour con Patti Pravo. Se lo merita, perché effettivamente è molto bravo. Ha fatto carriera, insomma, praticamente. Sì, bene, se lo merita, sono felicissima per lui. Tu hai detto che hai suonato tanto, ma le tue esibizioni live come sono strutturate praticamente? Beh, quello dipende un po' dalle situazioni. Ovviamente spostandosi parecchio ci si può spostare in tanti. Quindi pochi praticamente. Quindi pochi. Il budget è quello, quindi. Il budget, ma è proprio anche la logistica. Spostamenti, perché in macchina comunque bisogna andare con una macchina. Con transit, con quelle macchine dove possono portare gli strumenti dentro, insomma. Quindi di solito si va in giro in duo o in trio. Ah, perfetto. Che comunque è anche una dimensione che a me diverte molto, insomma. Poi è chiaro, anche con la band quando si può è bellissimo, però molto spesso appunto... Ma la presentazione del disco c'è stata la band? Sì, eravamo in cinque, c'era basso, batteria, la tastiera, chitarra, una corista. Bello. Sì, tutto. Però come tu hai detto, 2-3 massimo. Insomma. Sì, di solito sì, è più gestibile, anche certo. Perché a volte sto fuori 5 giorni e comunque diventa... E diventa pesante dopo. Quindi... Però se fai la tournée sei sempre al completo come formazione? No. Appunto sempre... Capita, quindi cambia ogni volta, insomma. Quasi. Sì. Di solito è chitarra o con un altro chitarrista oppure con un violista o con un violinista, insomma, con le percussioni. Ettore Bonafè, che ha registrato nel disco, percussionista, vibrafonista, lui spesso suona con me in trio, quindi chitarra, percussione e viola, insomma... Mi piace. Si deve arrangiare, insomma, praticamente. Come a me piace anche cambiare. Sì. Non rimanere sempre in una certa maniera, insomma, cambiare, dare una dimensione diversa, continuamente diversa. Sì. Benissimo. Dimmi. No, chiedo scusa, ti sei fatta conoscere anche a New York? Sì. In 3 posti splendidi, uno più bello dell'altro. Sì, ho fatto più di 3 concerti, poi ho fatto anche un house concert, ho fatto una session in studio con una cantautrice di New York che mi ha chiesto di mettere delle voci sul suo disco. Che bella soddisfazione questa. Sì, no, è stato proprio divertente, bello. Poi a parte New York è un posto incredibile, molto bello, poi insomma, posti belli. Quindi ci ritornerai di sicuro? Sì, in realtà non so, perché adesso i contatti si stanno spostando un po' dall'altra parte della West Coast, quindi vediamo. California, mica male andare in California. Sì, infatti. Tu sei questo, cioè in qualche pezzo puoi avvicinarti alla West Coast? Sì. Qualcosina, sì. Sì, io non sono brava a dire queste cose, perché io... Qualcosa sì, vabbè, non tutto. Sì. Secondo me sì. Cobb, Steele, Nash e Young, al finale sicuramente non sono della East Coast, sono della West Coast, sono West Coastiani al 100%. Un po' Eagles anche. Grande. Richard Fury, abbiamo parlato di Richard Fury, di Buffalo Springfield, lui aveva fondato I Poco col fratello di Neil Young. Insomma, Vedi che c'hai qualche... Le cose vanno sempre, girano sempre, tuo papà e tua mamma che avevano quei dischi folk a casa, folk inglese e folk americano. E tutto parte dalla la Bites, tutti i famosi dischi di Monty Appalachiani, il folk inglese si dice portato poi nel folk americano, quindi nasce tutto da là, si sviluppa, si amplia, e poi si arriva giustamente ai tuoi pezzi, che non sono folk, però sono pezzi tuoi e basta, che hanno reminiscenze, ma c'è niente di male. Certo, no, ci mancherebbe. C'è tutto positivo. E questo premio che hai vinto, il premio Karish? Ah, sì, l'anno scorso a Sarzana ho partecipato a questo festival. Così. Sì, quest'anno ha risuonato anche a Sarzana, al Festival della Chitarra Acustica, al Festival Internazionale. E niente, è stata una bella esperienza, una grande esperienza. Poi quel palco lì è un palco, insomma, importante, intenso. Il pubblico è un pubblico intenso, perché comunque è un pubblico di persone che ascolta tanta musica, e musica anche, insomma, di livello e di qualità, quindi... è stato bello. Hai fatto uno show là, qualche pezzo, hai suonato qualche pezzo? Per il concorso erano soltanto due. Erano soltanto due. E invece poi quest'anno sì, ho suonato... Sì, eri ospita quest'anno? Ero nel cartellone. Nel cartellone, insomma, esattamente. Hai suonato i pezzi tuoi, insomma. Sì. Bene, sì. È stata una bella esperienza. Sicuramente. Anche perché poi l'ha vinto, quindi... Insomma. Sì, d'accordo. Poi visto che l'ha vinto, è diventata ospite nel cartellone. Esatto. E avere il tuo nome nel cartellone... di un festival così importante, una cosa che fa piacere sicuramente. Allora, facciamo ascoltare ancora qualcosa da disco. Sì, facciamo sentire, poi faremo il finale con i pezzi dal vivo, chiaramente. Adesso sentiamo un altro pezzo dal disco. Giulia, cosa hai deciso di far sentire? L'ultima traccia del disco, che è Floating, che abbiamo parlato prima. Pezzo molto interessante. Adesso lo sentiamo totalmente e poi qualcosina diremo ancora. Ok. If the world falls apart, I'll become a shooting star, dancing in a secluded place. I'll reach your secure embrace. I'm floating into the blue. I breathe in the fresh air and I reach out for you. If the world falls apart, I'll become a shooting star, dancing in a secluded place. I'll reach your secure embrace. I look at Sirius in the sky. I know you're there. I lift my head and I say hi. If the world falls apart, I'll become a shooting star, dancing in a secluded place. I'll reach your secure embrace. I'll reach your secure embrace. I'll reach your secure embrace. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ancora circa una ventina di minuti con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Giulia Millanta. Cosa ne pensi, Giulia? Io sono sempre curioso, sai, perché mi piace scoprire l'artista. Di tutti questi talk show dove ci sono questi personaggi un po' strani che fanno da giuria, che poi ascoltano, propongono nuove voci, senza far nomi, non sei molto d'accordo. Con me caschi male. No, io non stavo dicendo che... No, oltretutto, cioè, io non guardo la televisione. Quindi non lo sai. Sì, le so, perché ovviamente arrivano agli orecchi, certo. Comunque, insomma, di botta o di rimbalzo uno li conosce, sa che esistono. Però ho fatto questa scelta scelta non categorica, ogni tanto la guardo anch'io se c'è qualcosa di serio, di interessante. Però no, televisione... Ci sono tante cose migliori da fare, leggere, studiare, scrivere, certo. Suonare. Anche suonare l'ukulele. Suonare l'ukulele che mi diverte. L'ukulele è di bella adesso in tutte le classifiche mondiali, ma tu l'hai inciso prima di lui, chiaramente. Però non sei nelle classifiche mondiali, ma questo è un altro par di maniche. La prima è stata Marilyn Monroe. Sono d'accordo. Però musicalmente adesso tutti hanno riscoperto questo strumento delizioso grazie a Eddie Vedder, dobbiamo sempre ringraziarlo, lui è un genio, eh sì. E l'ha portato in tutte le classifiche mondiali e spero che sia un beneplacito anche per te, per altre cose, insomma, visto che hai usato anche te questo strumento. Chi l'ha suonato? L'hai suonato te? Sì. Suonato te. L'idea di metterlo dentro in questo pezzo brevissimo ma significativo per altre vie, altre cose da fare poi in seguito, come l'hai avuto? Questo pezzo è nato sull'ukulele, l'ho scritto lì perché mi ero messa a giocare proprio nel vero senso della parola con l'ukulele, è venuta questa melodia, giro. Sì, questo giro, questo fischiettio e è andata a incidere, l'hai inciso subito, insomma, c'è stata la prima take oppure... ti ha dato una mano per arrangiare il discorso oppure è andato così proprio secco? No, è andato proprio così. Ah, in questa maniera, sì, qua. Sì, come sì, l'hai creato, l'hai ideato e via. Sì, ho semplicemente dopo aggiunto il triangolo. Ah, il triangolo, sì, ho capito. Qua. Però l'idea era quella di lasciarlo proprio così, una specie di saluto. Il disco doveva finire così. Sì. Per poi mettere in sospensione qualcosa d'altro. Puntini. Anche quella è una regola, cioè una regola, è un modo per poter capire, per poter dare all'ascoltatore l'idea che non è ancora finito il discorso, si amplia, si va avanti. Ci hai messo molto a fare questo disco, Giulia? Scriverlo o registrarlo? Nella totalità. No. Scriverlo, vabbè, da quando è uscito, cioè in realtà un paio d'anni. Da quando è uscito il precedente? Sì. Il precedente del 2008, quindi insomma. Sì, poi non lavorandoci in modo proprio quotidiano, perché comunque suonavo, certo, stando in giro. Poi a registrarlo non molto, perché in effetti... 2 mesi. Hai fatto abbastanza presto. Adesso, sì. 2-3 mesi tra grafica, copertina e tutto quanto. Sì. Da giugno a settembre poi era più o meno. Quindi vuol dire che le canzoni erano già a posto, insomma, non sei... Abbastanza, comunque erano abbastanza già nella mia testa. Quindi... Pignola al punto giusto? Un pochino sì. Sì. Però poi ogni tanto gli errori stanno bene, insomma. Sì, I dischi quelli anni 70 sono strapieni di errori e sono fantastici. Sì. È vero, sì. È la più bella musica quella. Sì, gli errori volutamente sono stati lasciati là perché quel momento là il musicista doveva suonare così, aveva quell'ispirazione là. Sì. Ed era lui. È poco da fare. Così è. Adesso Dropping invece down, sei tu. Allora. Adesso invece sei tu. Adesso sono io, e, Skulls and Crossbones. Ah, vuoi suonare dal vivo adesso? Sì, abbiamo quasi finito, quindi abbiamo ancora una quindicina di minuti, quindi poi facciamo i saluti finali e poi ci saluterai con un'altra canzone. Okay. Allora, cosa hai scelto adesso? Skulls and Crossbones. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. In the darkness of the crypt, the deadly silence of the Christ, his body lying under the altar, with his passion there like smolder. As I walked through the mold, I could hear their ethereal song about sorrow and sin, about forgiveness to those who are weak. Skulls and crossbones, all around there were skulls and crossbones, and no peace for us, rebels and godless ones. Why has it all to be about pain? It's misery. Held in chains, all the saints, the king tortured, their inquisitory eyes on me like vultures. And I'm sorry for the faith I lost. I'm afraid of what it might cost, 'cause since our past is still a curse, tomorrow be defeated, even worse. Skulls and crossbones, fools and godless ones. Skulls and crossbones, all around there were skulls and crossbones. And no, no, no, no peace for us, for the rebels and godless ones. Christian hell won't apply to my life. I'll thrill as when it's delayed, and no matter how hard you try, you're out of time to relate. Skulls and crossbones, all around there were skulls and crossbones. And no, no, no peace for us, for the rebels and godless ones. No, no peace for us, for the rebels and godless ones. Se ci fosse un po' più di gente ti faremmo un sacco di applausi in questo. Mi hai sentito forse? Dicevo, se ci fossero un po' di persone ti faremmo un sacco di applausi. Intensa, bellissima questa canzone. Grazie. Ti ho visto veramente presa. Sì. È un pezzo molto folk questo, molto qua, secondo, folk, molto sì. Folk inglese almeno all'inizio, poi leggermente no, però all'inizio i giri, sì, degli accordi erano molto ancorati al folk inglese. Sì, poi in realtà nel disco è leggermente diverso, anche perché ho usato una chitarra baritona, certo, che è una chitarra proprio con un suono molto diverso. E, però, sì. Qua invece l'hai fatta proprio in quella dimensione là, mi pare giusto essere una dimensione totalmente unplugged, quindi... Giusta, è forse uno dei pezzi più belli, più significativi dell'album, secondo me, anche io non sono un critico, ovviamente, sì, anche sì, secondo molti di cui critiche ho letto, sono molto fermati in questo pezzo. È anche uno dei miei preferiti. Bene, questo è positivo. Sì. In generale, la musica italiana, come ti sembra in questo periodo? Ci sono delle belle cose. Ci sono sicuramente delle belle cose. È stato citato Capossela. Non me ne viene in mente moltissimi, purtroppo. Soprattutto non mi vengono in mente recenti. Cioè, potrei ovviamente citare De André, citare certo. Battiato, ha fatto delle cose molto belle. Però ecco, ora come ora non lo so, non ho delle grosse passioni, a dire il vero. Forse torni un po' indietro allora dal punto di vista musicale italiano. Sì, vabbè, Conte, Tenco, ci sono delle cose meravigliose. E tu hai con cittadini Piero Pelù, per esempio? No, dunque, i Litfiba hanno avuto un momento tosto. Notevole, quando facevano la trilogia, Sì. Terra, Mare e Fuoco. Però ecco, dopo di quello... No. Hanno avuto un momento di calo. Adesso insomma... Cioè... sono ritornati su perché hanno deciso di riprendere le vie del successo praticamente. Sì, Piero Pelù me era stata più una scelta commerciale. Sì, perché Piero Pelù in fase calante, l'altro Ghigo mi pare, sì. Non si ricordava più nessuno di lui, anche se ha scritto, anche se i pezzi li scriveva tutti sì, lui. Sì, sì. Sì, però è stata una scelta. E così vanno le cose. Beh, insomma, come gli 883, Max Pezzali e l'altro, giusto? Mia, come allora, i Wham, sì, sì. George Michael e l'altro, sì, sì, sì. Siamo lì, insomma, la coppia c'è sempre uno che è un... Sì, è vero. Ma avete sempre i Baustelle, però, che è una bella situazione. Non ti dicono granché. No. Irene Grandi, un po' così. Anche lì, dei più recenti, magari potrei dire... ecco, ora non mi viene il nome. Come si chiama? Mannaggia, il bassista, quello ricciolo. Branduardi? No. Ah, il bassista, scusa. Di che gruppo è? La favola di Adamo ed Eva. Ah, Max Gazzè. Oh, Max Gazzè. Lui è uno che non Sì, ma è mica toscano, però lui... No. Beh, lui è bravo. Lui è bravo, è uno di quelli più recenti che... Che ti piace. Che mi piace. Sì, è un po' alternativo, cioè sì, crea sempre le cose un po' leggermente diverse dalla norma. Sì. È bravo, cioè lui ha suonato il basso per un sacco di anni, è stato all'estero, quindi è uno che musicalmente se ne intende. Sì, lo so, Però la storia è questa. Adesso c'è Vasco e classifica. Nell'underground, secondo me, ci sono delle cose molto interessanti. Sì, a nell'underground, Firenze, sì, a Firenze anche... ci sono parecchi gruppi interessanti, sì. A Firenze, anche di un certo spessore, però nell'underground purtroppo non sono conosciutissimi. Ci vuole pazienza. Sì. Basta sperare in ogni caso, eh? andare avanti sempre, avanti, è quello importante. E modestamente ci vuole una radio come Blu Radio Veneto. Che questo sarebbe, ma se ce ne fosse una per ogni città d'Italia sarebbe... Cioè... E una volta c'era, una volta quando c'erano le radio libere veramente, come diceva Finardi, c'erano veramente, facevano questo genere. Poi sai, le cose, le radio hanno anche loro, i loro costi, eccetera, quindi noi invece andiamo avanti, siamo fortunati, chiaramente fortunati, andiamo avanti su questo disegno perché dobbiamo dare una mano all'artista emergente che viene qua a suonare, che viene da Firenze, sottolineiamo fino a qua, a suonare per dare seguito alle cose, per farlo conoscere. E questa è la dimensione di questo programma e l'idea nostra è questa. E come dico spesso io, gli emergenti danno molta più emozione dei big cosiddetti, insomma, come te questa sera, insomma, stai veramente emozionando un po' tutti, insomma. Grazie. Fai veramente della bella musica, quindi ascoltare te, ascoltare un big che magari non ti dice niente, sinceramente io preferisco ascoltare te, insomma. Beh, fa piacere. E non te lo dico perché sei qui davanti. Sì, sì, sì. E non mi hai pagato per questo. Si è messo agli atti. Va bene, io direi a questo punto facciamo un riassunto dei tuoi contatti e poi ci salutiamo, Giulia, perché insomma siamo arrivati alla fine dell'intervista. Allora, tuo sito come... www.giuliamillanta.com. Da lì accesso a tutti gli altri vari MySpace, YouTube, Facebook, eccetera. Da lì la possibilità di acquistare il disco. Che si chiama? Che si chiama Dropping Down, l'ultimo, Julian Dizziness il primo. C'è la possibilità sia di acquistare il disco fisico che di andare poi nei siti tipo iTunes per il download. E, disco che si trova comunque anche nei negozi, distribuito da Audioglob, ai miei concerti. Venite ai miei concerti, volentieri, fanne uno da queste parti. Ecco, qui questo sì, infatti. Ora mi attrezzo per settembre. Esatto, ecco, per settembre, bravo, poi ci fai sapere. Insomma. Fai sapere, volentieri. Sì, sì. Il prossimo disco, quando pensi di farlo? Non lo so, perché ho una mezza idea di fare qualcosa ora a breve, di fare una specie di disco, di EP. Sì, unplugged, con qualche inedito. Con. Mi piacerebbe rimetterci anche di nuovo un'altra cover che cos'è? Si può sapere, segreta? Un pezzo di Janis Joplin. Ah, vedi. È un mio fan che me l'ha chiesto esplicitamente. Probabilmente l'ha già sentito suonare da te, sì, questo pezzo, sì, cantare sì, da te. Lo faccio spesso e quindi me l'ha richiesto esplicitamente. Siccome ho già degli inediti pronti, potrebbe darsi che a breve uscisse un EP. A breve sarà anche qua su questo tavolo, questo sicuramente, disco. Ecco, sicuramente, sicuramente. E possiamo strapparti la promessa? Sì. Ce lo vieni a presentare? Certo, ci mancherebbe. Ti aspettiamo allora. Ora ho imparato anche come si fa ad arrivare qui. Ecco, sei stata brava. Mi sono persa 25 volte a questo punto, ho imparato. Al 26esima sei arrivata. Allora ti aspettiamo con il disco. Volentieri. Nuovo. Grazie di aver accettato l'invito di venirti a proporre la tua musica. Grazie a voi. È onorata di averti conosciuto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata con le frequenze di Blu Radio Veneto, cioè 88 794 600, con la nostra cara amata musica. Ciao Maurizio. Ciao Agostino, grazie a Giulia che è venuta questa sera. Grazie a voi, grazie di cuore. Un in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera. Crepi. Adesso cosa ci fai ascoltare? Hotel. Ok. Puoi partire subito, sai. Ciao a tutti da Blu Radio Veneto. Again and again, finding the same place in my head. Places and faces and colors and shades. When you think you've had enough of everything, you'll start to love. It won't be me the one just to keep you company. I won't be the one to just to find your harmony in your restless search for approval and self-satisfaction. All you need is my self-denial and too much of my devotion. Again and again, finding the same place in my head. Places and faces and colors and shades. When you think you've had enough of everything, you start to love. I was let living any life like a stay in a hotel. Always wondering about suicide. To finally get relaxed, straight to hell. Again and again, finding the same place in my head. Places and faces and colors and shades. When you think you've had enough of everything, you start to laugh. Again and again, finding the same place in my head. Places and faces and colors and shades. When you think you've had enough of everything, you start to laugh. Circle of uncaring, scaring faces of clowns. Mine, yours, yours, mine. And I laugh, I don't want any more lies. I don't need too many ties. A place in the heart is what I need. Warm home I'll search forever. And for this I'm planting the seeds. You know, for this I'm planting the seeds. Enough of this, now I'm planting the seeds. Rock Wave, l'onda del rock.